Prima di continuare con la lettura, vorremmo puntualizzare un fatto per correttezza, come nostra abitudine. Anna Leon Owens, che noi amiamo, era giustamente sdegnata per lo stato di schiavitù in cui si trovavano le donne dell'harem e per la pratica della prostrazione e la giustizia corrotta, ma sembrava riferirsi spesso alla barbarie siamese contrapposta alla civiltà inglese di cui lei era rappresentante. Forse Anna non ricordava che la schiavitù agli inglesi dava fastidio solo quando non riempiva i loro portafogli. Basti pensare allo stato in cui i civilissimi inglesi ridussero i nativi americani, depredati e chiusi nelle riserve e schiavi dell'alcol, il popolo indiano derubato e costretto a indebitarsi per ricomprarsi le terre un tempo sue. Per non parlare della vergognosa guerra dell'oppio, in cui la britannica Compagnia delle Indie Orientali obbligò i cinesi a importare l'oppio inglese prodotto nell'India già conquistata in cambio di argento. L'oppio era stato vietato dall'imperatore, tranne che per usi terapeutici. La sua esportazione massiccia da parte degli inglesi in Cina raziò l'argento cinese e ridusse gran parte della popolazione in stato di tossicodipendenza. Con tutto il bene che vogliamo ad Anna Leon Owens e la vera stima per il suo indomito obiettivo di civilizzare il Siam, le ricordiamo oggi tutti questi dettagli su come gli inglesi intendevano la civilizzazione. E ora riprendiamo la lettura. La sera della festa Anna aveva addobbato l'appartamento con bandiere inglesi e aveva disposto tantissimi fiori sui tavoli, su cui aveva preparato tè, caffè, dolci fatti in casa, marmellate inglesi, pane e burro. Anna aveva invitato 30 bambini e aveva intenzione di sistemarli intorno ai tavoli per servire il tè nel modo tradizionale. Non aveva mai pensato di limitare il numero di aiutanti e quando i figli del re arrivarono, ognuno era accompagnato da molti schiavi, i quali, con dispiacere di Anna, insistettero per entrare insieme ai padroni. La folla disparata fluì attraverso le porte aperte della piccola casa. Quelli che non riuscirono a entrare per quella via a causa della ressa saltarono dentro dalle finestre finché a stento ci fu un centimetro quadrato non occupato. Inutilmente Anna cercò di mantenere l'ordine. Pensava che se avesse convinto i bambini a sedersi ci sarebbe stata una possibilità di prendere il controllo della situazione, ma la sua voce si perdeva nel baccano generale di 400 ospiti. I principi e le principesse non sembravano capire che ci si aspettava che si sedessero sulle sedie attorno ai tavoli. Vi si avvicinarono e li studiarono con interesse. Alcuni infilarono le dita nelle marmellate per sentirne la consistenza, altri presero in mano i dolci e li posarono di nuovo, altri ancora curiosarono nelle teiere. Poi, senza aver mangiato niente, si sparsero nella casa come uno sciame di locuste, mettendo le mani su tutto quello che colpiva la loro fantasia. Anna era come un pezzo di legno in acque agitate, vorticavano attorno a lei, urlando e ridendo, strattonandola e strillando. Gli schiavi guardavano beati le mosse delle persone loro affidate. Anna aveva dato per scontato che si sarebbero comportati con la calma e con l'ordine di cui avevano dato prova quando l'avevano invitata e rimase senza parole scoprendo che frugavano nei cassetti, nella sua toeletta e nei credenzini. Non sarebbe rimasto un solo ago, un fazzoletto, un vaso o un quadro in tutto l'appartamento se l'orologio della torre dall'altra parte della strada non avesse annunciato la fine del giorno. Ci fu un'improvvisa corsa verso il palazzo. La casa era in rovina. L'unica cosa che non era stata toccata, bella come era stata preparata per la festa, erano i tavoli, ancora addobbati con i piatti, pane, burro, marmellate e dolci. Anna si sedette senza forze a contemplare i danni. Aveva già visto in precedenza com'era imprevedibile la disciplina e l'assoluta mancanza di essa, dei siamesi. Sapeva anche che i reali avevano il diritto di prendere tutto quello che volevano. Non le era mai venuto in mente, comunque, che i suoi allievi, che le obbedivano ciecamente un giorno dopo l'altro in classe, una volta usciti dalla loro orbita ed entrati in casa sua, potessero diventare dei vandali. Non le rimase nemmeno un paio di forbici, un rocchetto di cotone, uno spillino, un ditale, le cose che li avevano attirati di più. Il giorno seguente arrivò a palazzo un corteo di schiavi, non per riportare il mal tolto, ma carichi di doni. La maggior parte valeva 10 volte di più delle cose prese. L'unico problema era che per lei non erano di alcuna utilità. 27. Il servizio nel tempio. I contatti di Anna con le madri dei suoi studenti erano frequenti e di vario genere. Era in ottimi rapporti con tutte, ma ad alcune era particolarmente vicina. Le aveva scelte come amiche perché avevano molte cose in comune e tutte si preoccupavano delle persone che avevano attorno, cosa che la attraeva molto. Individualmente erano diverse e i loro rapporti con Anna riflettevano queste differenze. Lady St. Clair diede ad Anna un considerevole aiuto nello studio del siamese. Era sempre contenta di vederla a casa sua, le offriva tè e dolci e la ricopriva di attenzioni che scaldavano il cuore. Capiva le politiche complicate dell'harem e guidava l'amica attraverso di esse con l'abilità di un diplomatico. Grazie ai suoi avvertimenti, Anna evitò molti errori. Il rapporto di Anna con Lady Tiang, madre della principessa Somawadi, era quasi altrettanto intimo, ma di un genere assai diverso. Aveva presto scoperto quanto fosse grande il cuore della donna. La vita nell'harem per molte donne dell'interno era tollerabile solo perché la prima moglie aveva una grande compassione e discrezione. Persino sua sorella Choi era stata vicino a essere condannata a morte 5 o 6 anni prima. All'epoca era la favorita. Mentre recitava in una commedia a corte, un giovane nobile si era innamorato di lei. La moglie del giovane, in uno slancio di altruistica passione, si vendette alla concubina come schiava e come intermediaria. Prima che il piano del nobile di rapire Choi venisse eseguito, fu intercettato uno dei biglietti che lei gli aveva scritto. La trama venne scoperta, il nobile e la moglie vennero orribilmente torturati e poi uccisi, e Choi fu salvata solo grazie all'intervento di Sir Robert Schomburg. Anna era andata spesso da Lady Tiang con qualche storia triste e regolarmente si era allontanata, rassicurata dalla frase «Non si preoccupi, Mem Cha, me ne occuperò personalmente». Insieme avevano anche escogitato un espediente. Ogni volta che il re era infuriato e pronto a far frustare qualcuno, Lady Tiang informava Anna che, fingendo di essere all'oscuro di quanto stava avvenendo, si presentava al re con qualche interessante quesito intellettuale di sanscrito o siamese. Per quanto semplice, l'espediente aveva sempre funzionato. Il re la vedeva esitare sulla soglia con un libro e le faceva cenno di entrare, smetteva di imprecare e di insultare e si lasciava assorbire dalle questioni che lei sollevava. La curiosità intellettuale aveva il sopravvento sui suoi impulsi collerici. Ogni volta che lei si avvicinava al suo studio e lo sentiva strillare, perdeva coraggio e rallentava il passo. Stavolta, indovina, pensava, ma non accadde mai. Ad Anna piaceva molto anche la principessa Lamom, la quale le chiedeva spesso consiglio sull'educazione del principe Chulalongkorn e dei suoi fratelli. Senza la sua collaborazione non sarebbe stato possibile inculcare nella mente dei giovani i principi umanitari. Per Anna era una questione di principio fargli sempre sapere come la principessa si impegnasse ad aiutare le persone sfortunate. Lui ascoltava gravemente, con occhi vivaci e interessati. Quando lui deplorò la crudeltà con cui venivano trattati gli schiavi a palazzo, Anna si convinse che iniziava a ottenere dei risultati, con l'esempio se non con le parole. Lei si sentiva, per usare una frase del re, la fiamma di una candela che si agita al vento. Se avesse potuto accendere una lampada che un giorno illuminasse ogni angolo del regno, il suo lavoro in Siam sarebbe stato più importante di quanto non le sembrava la maggior parte delle volte. Nessuno dei suoi amici sapeva quanto fosse solitaria la sua vita. E come fosse grande il senso di inutilità che spesso la sopraffaceva, come fossero gravosi i suoi compiti, quante provocazioni doveva subire, accumulando paure un mese dopo l'altro. La vita sociale a Bangkok era limitata, la compagnia era più difficile da trovare che in qualsiasi altro posto in cui avesse vissuto. Era raro che ci fosse qualche nuovo arrivo nella comunità. Anche i libri nuovi erano rari e non c'era né teatro né musica. Singapore era stata viva, eccitante, al crocevia del mondo. Bangkok era un vicolo cieco. Era ricompensata dalle soddisfazioni che trovava nello studio e nel lavoro. Forse le suore si sentivano così, pensava. A volte Anna provava un brivido di soddisfazione quando riusciva ad aiutare una delle molte persone che si rivolgevano a lei, ma il conforto che provava era sempre mitigato dal fatto che, mentre rimediava una singola ingiustizia, ne venivano compiute altre 10. Non era in suo potere cambiare il sistema che portava così tanto dolore intorno a lei. Esisteva però sempre l'eccitante ipotesi che potesse farlo il principe Chulalongkorn, e questo pensiero la sostenne più di una volta quando era scoraggiata o impaziente. Il principe faceva vestire i suoi schiavi dignitosamente, li nutriva a sufficienza e li trattava con considerazione. Un giorno stupì Anna dicendo pensieroso: «Non credo che dovrebbero essere chiamati schiavi. Hanno più diritto di noi di essere chiamati nobili perché hanno imparato a sopportare. Siamo noi, principi, quelli che non hanno imparato che non c'è niente di nobile nell'opprimere gli altri uomini». Kun Tao Hap e Lady Talap completavano la cerchia delle amiche dell'interno di Anna, con la promozione del padre a ministro del Nord all'inizio del 1864. La posizione di Lady Talap era cresciuta di importanza. La sua posizione ora equivaleva a quella del Kralahome e quindi era uno dei nobili più influenti del paese. Lady Talap era una fervente buddista. Le piaceva far capire all'amica inglese la sua religione e di frequente invitava Anna alle funzioni che si tenevano nell'harem. «Venga, mem», diceva con un cenno della mano, «oggi è il nostro turno di andare al tempio, deve venire anche lei, le spiegherò il rito». In una di queste occasioni si incamminarono per il Wat Phra Kaeo, nell'aria fresca del mattino. Dalle campane della pagoda giungevano fiotti di musica vivace. Un paggio chiese ad Anna dove era diretta e alla sua risposta volle sapere per vedere o per ascoltare. Lei rispose: «entrambi». Le donne dell'harem erano già sedute sul pavimento quando lei e Lady Talap entrarono. Indossavano panung bianchi con sciarpe di seta dello stesso colore che passavano sopra la spalla sinistra. Formavano ricche pieghe sul seno e poi passavano sulla spalla destra. Le schiave sedevano un po' in distanza. Gli abiti avevano la stessa foggia, ma non erano di seta. In effetti molte schiave erano sorellastre delle loro padrone, figlie dello stesso padre, ma di una madre schiava. Le donne sedevano in circolo. Ognuna aveva davanti a sé un vaso di fiori e una candela accesa. Subito, davanti alle donne, c'era il cerchio degli allievi di Anna, che naturalmente avevano un rango più alto delle madri. Vicino all'altare stava il sommo sacerdote Chao Kun Sa, con in mano un ventaglio concavo, riccamente ricamato, carico di gioielli e di dorature e foderato di seta verde pallido. Era l'emblema del suo rango e lo teneva davanti al viso come voleva la tradizione buddista. La sua tunica gialla, aperta sul davanti dalla gola alla cintola e chiusa sotto la vita, ricordava la toga romana. Dalle spalle gli pendevano due strette strisce, sempre gialle, simili allo scapolare del clero della Chiesa Cattolica. Sul fianco aveva un orologio d'oro aperto, dono del suo sovrano. Ai suoi piedi erano seduti 17 discepoli, anch'essi col viso coperto da ventagli, che però non erano adornati così riccamente. Come tutti gli altri, Anna e Luis si tolsero le scarpe. L'abate sedeva immobile con la faccia coperta, in modo che i suoi occhi non distraessero i suoi pensieri. Anna era molto incuriosita e si spostò per cercare di cogliere l'espressione del prete. Lui si accorse del movimento, le lanciò una mezz'occhiata di rimostranza e spostò il ventaglio in modo che la sua faccia fosse di nuovo coperta. Poi iniziò il canto di apertura. Subito tutta la congregazione si alzò sulle ginocchia e tutti insieme si prostrarono 3 volte profondamente. Tutte tenevano la testa piegata, le mani giunte e gli occhi chiusi. Il rito era simile a quello della liturgia inglese. Il prete diceva qualcosa, la gente rispondeva e alla fine ripetevano tutti insieme. Non c'erano canti e non ci si alzava né ci si sedeva. Non c'era cambiamento d'abito o di posto. Il viso non veniva rivolto all'altare o a nord, sud, est o ovest. Il clero e le persone stavano inginocchiati, immobili, con le mani giunte davanti a sé e gli occhi chiusi. Mentre il prete parlava, le amazzoni erano coricate nei portici e nei vestiboli del tempio. Non erano in riverente attenzione come gli adoratori del tempio, ma erano occupate a divertirsi. Alcune giocavano, altre flirtavano con i custodi del tempio. Era un altro degli infiniti contrasti della vita siamese che incuriosiva e interessava Anna. La sua mente vagava dal sermone al predicatore e non poté fare a meno di paragonare la ritrosia del sommo sacerdote a farsi guardare in viso con un episodio successo tempo addietro che aveva per protagonista un giovane sacerdote che si chiamava Maharot. Durante un servizio aveva notato la sua voce melodiosa e aveva commentato la cosa con il re. Sua maestà aveva girato il complimento al prete, un giovanottone che cantava le risposte con una voce profonda e musicale. Quando il re si voltò da dietro il ventaglio, il prete strizzò maliziosamente l'occhio ad Anna. Lei ne fu stupita, ma lo fu ancora di più quando qualche giorno dopo il sacerdote andò a trovarla. Annie Elliot, la giovane sarta che aveva aiutato a confezionare i vestiti alle cortigiane in occasione della visita di Lord John Hay quel pomeriggio, stava lavorando per lei. Il prete si innamorò immediatamente della giovane inglese. Il giorno seguente le portò una rosa in piena fioritura in un costoso vaso cinese. Quando Anna lo punzecchiò chiedendogli se pensava che la signorina Elliot fosse più graziosa delle donne siamesi che conosceva, lui rispose: «Oh sì, le nostre donne sono gialle, ma lei è bianca, rossa e blu e di tutti i colori». Nonostante l'ammirazione così aperta per una donna fosse contraria alle regole del suo ordine, lui rimase scioccato quando Annie Elliot si alzò per dargli la mano in segno di apprezzamento per il regalo. Si ritrasse rapidamente. Poteva venire infranto lo spirito della regola, ma non la forma. Quando si accorse che lei si era offesa, cercò una soluzione compatibile con i suoi scrupoli. Prima le allungò il suo vecchio ombrello cinese e le suggerì di stringerlo. Al suo rifiuto si coprì la mano con un fazzoletto sporco e le offrì quella solo per essere di nuovo rifiutato. Finalmente, disperato, suggerì di nascondersi dietro un pilastro dove non potessero essere visti e lì le avrebbe dato la mano. Non riuscì a capire il suo rifiuto ancora più irremovibile. L'incidente terminò con una proposta di matrimonio da parte del prete che si disse disposto a lasciare il sacerdozio per una bellezza di loto dagli occhi blu come lei. Quando ne fu respinto, con calma chiese indietro i suoi doni e se ne andò per la sua strada. In Chao Kun Sa non c'era niente di questo. Lui era entrato nel sacerdozio da giovane e vi era rimasto fino a raggiungere il suo alto rango. Poi se n'era allontanato per 6 anni e correvano voci che fosse rientrato solo perché era innamorato di una ragazza, la cui famiglia disapprovava la loro unione. Quando lei fu presentata al re, lui ritornò nel monastero. Anna si chiese, mentre lo guardava seduto a gambe incrociate con il ventaglio davanti al viso, se questa rivalità fosse davvero esistita. Se era così, non lo aveva diviso dal re. Proprio allora Sua Maestà stava costruendo vicino al palazzo un tempio che si sarebbe chiamato Wat Ratchapradit Satit Mahasimaram, che significava il tempio eretto dal re. L'abate vi si doveva trasferire non appena fosse stato ultimato, in modo da potersi recare dal suo sovrano con poco preavviso. Il luogo che il re aveva scelto si trovava sul lato orientale, non lontano dalla casa di Anna, in quello che era stato un vecchio campo di caffè. La posa delle fondamenta fu l'occasione per insolite feste. Se ne sarebbe ricordata a lungo per quello che sembrò all'epoca un avvenimento di scarsa importanza. Dopo che furono consacrate con acqua e olio, le pietre che sarebbero state posate ai 4 angoli dell'edificio, vennero sistemate sopra di esse 7 lampade che dovevano rimanere accese per 7 giorni e 7 notti. 70 preti in gruppo di 7, formando un cerchio perfetto, pregavano reggendo tra le mani l'ordito mistico di 7 fili. Belle ragazze avevano portato offerte di grano e di vino, miele e fiori da deporre sulle pietre consacrate. Poi venne gettato nelle fondamenta vasellame di tutti i tipi, vasi, tazze, ciotole, caraffe, bicchieri e urne che le ragazze sbriciolavano con mazze di legno. Era un'occasione importante. L'orchestra e i cantanti di corte battevano il tempo, il re gettava monete e lingotti d'oro ed argento. Mentre la voce del prete si alzava, Anna ricordò la scena. Lei e il re stavano discutendo del nuovo console francese che era arrivato l'8 di aprile. Il signor Aubaret si infiammava facilmente, era dispotico e borioso. Prima di entrare nella carriera diplomatica, era stato comandante della marina francese e aveva trasferito i modi del ponte di comando nella diplomazia. Quel pomeriggio, il re, la cui paura e l'odio per i francesi erano stati portati al punto di ebollizione dal nuovo console, stava farneticando sulla maleducazione del signor Aubaret, sull'avidità dei francesi che stavano arraffando i suoi territori orientali, sull'apatia degli inglesi che avrebbero dovuto intervenire e sulla fatuità di tutti coloro che definivano la forma di governo del Siam una monarchia assoluta. Sono un monarca assoluto? Non ho potere sui francesi. Il Siam è come un topolino davanti a un elefante. Sono un monarca assoluto? Come mi considera? Dal momento che Anna lo considerava un monarca particolarmente dispotico e assoluto, lasciò perdere. Lui non aspettò la risposta. Non ho potere, borbottò. Non sono assoluto. Se punto l'estremità del mio bastone verso un uomo di cui desidero la morte perché è un mio nemico, non muore, ma continua a vivere nonostante il mio assoluto desiderio del contrario. Come posso essere un monarca assoluto? E accusò il fato che non gli permetteva di puntare il suo bastone contro il signor Aubaret mentre gettava oro e argento tra le ragazze che stavano preparando le fondamenta del tempio. Anna ridacchiò al ricordo dell'espressione del re, ma quello che seguì non fu altrettanto divertente. D'improvviso gli occhi del re furono attratti da una ragazza di bellezza insolita, con un'espressione sbarazzina che si stava divertendo a rompere i vasi. Nel momento in cui si rese conto di aver attirato l'attenzione del re, lei si lasciò cadere e nascose la testa nella terra. Anna guardò il re, che si limitò a chiedere il nome della ragazza, che era Tuptim, e quello dei suoi genitori, e si girò. Il servizio al Wat Phra Kaeo era finito. Anna si alzò con Lady Talam. «Ha capito il sermone, Mem Cha?» le chiese. «Solo che spingeva la carità.» «Sì.» aggiunse gratificata Lady Talap, e la settimana prossima, in occasione del Wisakha Bucha, come ogni anno, la praticherò a casa mia. Non dimentichi di venire. Sabato 21 maggio, alcune schiave ben vestite si recarono da Anna. L'anno prima, in quello stesso giorno, era avvenuto il suo incontro con Lore. Pensava a questo mentre, nell'aria fresca del mattino, si dirigeva da Lady Talap. Anna fu la prima ospite a superare i due leoni di mattoni e malta a guardia dell'entrata. Lady Talap, che dimostrava 16 anni anziché 26, la ricevette all'ingresso vestita di seta bianca. Ai lati aveva i suoi figli, il principe Tawi Tawania Lap, di 8 anni, e il principe Kap Kana Karatana, di 6 anni. Anna prese posto nel vestibolo interno che dava accesso alla vera residenza. Lady Talap era in piedi vicino a una piccola fontana di marmo. Tutt'intorno enormi vasi cinesi contenevano piante coperte di fiori e tra questi c'erano brocche in argento per l'acqua, grandi abbastanza da contenere due persone con un grosso mestolo ciascuna. 30 giovani schiave stavano riempiendole d'acqua che prendevano da un pozzo in giardino. La stanza era arredata con stuoie a strisce e con tanti cuscini da poter far accomodare 100 ospiti. Nel giardino, davanti alla porta della sala, c'era un tetto di paglia sorretto da un albero maestro, come una tenda con un palo centrale. Era il teatro eretto per l'occasione. Su un lato c'era un palcoscenico per le marionette. Entrambi i palchi erano decorati con gusto. 50 o più donne e facchino entrarono da un cortile interno sotto lo sguardo attento di Anna, portando in testa pesanti piatti d'argento contenenti carne e una vasta scelta di cibi che sistemarono nella sala. Erano seguite da ragazze vestite di bianco, le quali disposero dei fiori in vasi d'oro vicino a ogni sedile. Poi presero posto dietro le loro padrone. Anna osservava i preparativi con crescente interesse, chiedendosi chi sarebbero stati gli ospiti. Erano solo le 7, ma le donne di casa erano evidentemente in piedi da ore. I giardini e la casa erano immacolati, tutto era pronto. Il cancello venne aperto e in questa scena da favola furono fatte entrare le ospiti una alla volta. 100 orribili e decrepite mendicanti, ricoperte di stracci, terribilmente sporche. Lady Talap andò incontro alle sue ospiti con cortesia e con una grazia che era affascinante nella sua semplicità. Le fece accomodare sui bassi sgabelli vicino alla fontana, poi con le sue ancelle tolse gli stracci che indossavano e iniziò a lavarle con un sapone profumato e l'acqua della brocca d'argento. Lavò i capelli delle mendicanti e li pettinò, poi le vestì con abiti bianchi nuovi. A questo punto fece sedere le vecchie sui cuscini davanti ai vassoi d'argento con i cibi. Lady Talap e le sue ancelle si inginocchiarono e le servirono. Dopo il pranzo la musica iniziò e gli attori e le marionette comparvero sui palcoscenici. A intervalli seguivano canzoni lamentose. Dopo ore il sipario calò sull'ultimo atto. Il rumore delle voci e degli strumenti svanì e un coro di commenti soddisfatti arrivò dalle vecchie mendicanti. Mentre si preparava ad andarsene, Lady Talap diede a ognuna un regalo in denaro. 28. La storia della concubina e del gioco d'azzardo. Le grida erano orribili. Non sembravano provenire né da un essere umano né da un animale. Anna e Boy, che si dirigevano al fiume, si guardarono rapidamente intorno. Alle loro spalle due uomini robusti trascinavano Nailek, il signor Piccolo, il nano del palazzo. Aveva le mani incatenate, una corda intorno al collo. Ad ogni passo lanciava un urlo di protesta. Anna si fermò ad aspettare che gli uomini la raggiungessero. Il nano era mezzo nudo, il viso contorto in una maschera terribile. Come una scimmia dava sfogo alla sua angoscia sollevando la testa ed emettendo urla lamentose in cui l'animale sembrava sopraffare l'essere umano. Mentre gli uomini si avvicinavano, Anna dovette alzare la voce per farsi sentire. «Che cosa succede?» chiese alle guardie. Loro si fermarono e le grida cessarono. Nailek strizzò l'occhio ad Anna e storse la faccia in una smorfia. «Fa sempre quello che non dovrebbe», rispose uno degli uomini. «Adesso ha tagliato la bella coda della giumenta preferita del re, quindi lo impicchiamo per farla finita con i suoi scherzi». A quelle parole il nano gettò un urlo, si buttò a terra e lottò così violentemente con la corda che gli stringeva il collo che pareva volesse strangolarsi ed evitare ai suoi aguzzini la fatica. Anna parlò agli uomini con calma. Sapete che non potete senza il permesso del re, e se continuate a tormentarlo così andrò dritta da lui a lamentarmi. Non appena udì la minaccia di Anna, Nailek fece un balzo e si drizzò. La guardò con un sorriso vuoto e scosse gli enormi pugni legati in direzione dei suoi carcerieri. «Bene», disse uno dei due uomini, confuso, «in realtà lo stiamo portando in prigione, poi andremo a portare le nostre lamentele al giudice». Allora, invece di dirigersi al fiume, Anna e Luis seguirono gli uomini e il nano. Furono accompagnati da una folla numerosa fino alla prigione in cui il nano fu gettato urlante. Mentre Anna rifletteva, al tempo stesso in preda a pena e a repulsione, la strana figura comparve dietro le sbarre di una finestra. Piangeva: «Fatemi uscire! Fatemi uscire!» Alcuni ragazzi presero a tormentarlo, cercando di allontanargli la faccia dalla finestra con dei bastoni. Anna protestò con il carceriere e la folla venne dispersa. Arrivò la notte. E lei rimase lì per un po', cercando di tranquillizzare il nano. «Non piangere più. Riferirò al re quello che è successo e lui ti farà uscire. Adesso dormi e domani uscirai di qua». Le parole sembrarono penetrare nella testa del nano e le grida cessarono. Il mattino seguente, di buon'ora, Anna passò dalla prigione mentre si recava allo studio del re. Nailek sbirciava fuori della stessa finestra e nel momento in cui la vide si mise a urlare. Il carceriere le disse che aveva gridato tutta la notte e che aveva rifiutato di mangiare. Anna cercò di consolarlo, indicandogli il palazzo, dicendogli che stava andando dal re e che doveva essere paziente, ma inutilmente. Rimase delusa scoprendo che Sua Maestà era occupato per tutto il giorno e che nessuno voleva intercedere per liberare Nailek. Soltanto la mattina seguente riuscì a parlare con il re. Lo informò che il nano aveva tagliato la coda di Maiduna e aggiunse: adesso per questo è in prigione. Il re scoppiò a ridere all'ultima bravata del suo giullare preferito e la sua ilarità aumentò di intensità quando Anna aggiunse che gli stallieri erano furiosi e si erano rivolti al giudice. Il povero Nailek sta alla finestra e ulula, spiegò lei. Non capisce perché è in prigione e non mangia. Non ha toccato cibo e temo che morirà di fame prima dell'inizio del processo. Il re ritornò immediatamente serio, rendendosi conto che quell'essere mezzo selvaggio non capiva la differenza tra il bene e il male più del gorilla a cui assomigliava. Senza che lei lo chiedesse, scrisse un ordine reale per farlo liberare. Quando Anna lo presentò al carceriere, le porte della prigione si aprirono. Trovò Nailek stremato, steso sul pavimento della cella. Quando vide Anna, iniziò a lamentarsi come un cane. Aveva gli occhi fuori delle orbite, lei temette che stesse morendo davvero per sfinimento e per mancanza di cibo e di acqua, ma quando lo informò che il re aveva dato ordine che venisse liberato, balzò in piedi e corse fuori dalla prigione. Anna lo vide darsi la gambe verso la casa in cui viveva con la donna che aveva il compito di occuparsi di lui. Una decina di giorni più tardi, Anna vide di nuovo il nano seduto a cavalcioni di un muro che agitava una frusta immaginaria fingendo di essere a cavallo. Non appena la vide, balzò giù e corse verso di lei a quattro zampe. Si accovacciò accanto a lei, le prese la mano tra le sue, la annusò e disse: Hom Hom, che buon profumo! Il re diede ordine che Nailek non venisse più molestato, così che il nano dovette solo subire lo scherno dei ragazzi che passavano. Considerò Anna la sua benefattrice per tutto il tempo che rimase in Siam. Nella nebbia della sua mente, almeno questo fatto era chiaro. Anna era commossa dalla costanza con cui Nailek si ricordava del suo piccolo gesto di gentilezza, soprattutto dal momento che nei quartieri alti, dove avrebbe avuto motivo di aspettarsi riconoscenza, non aveva un simile apprezzamento.